Pomeriggio al Consiglio dei Ministri si ipotizzano nuovi tagli a enti, nel mirino ci sarebbero le camere di commercio e la motorizzazione. Lieve ripresa per i redditi delle famiglie nel 2013 e cresce la propensione al risparmio, ma il potere d'acquisto cala dell'1,1%. L'Istat diffonde anche i dati sui conti pubblici, deficit PIL al 3%. In Ucraina torna a salire la tensione nelle zone russofone del paese. Attivisti filorussi hanno occupato la sede del governo a Donetsk e proclamato una sorta di repubblica, riunione d'emergenza del governo a Kiev. 20 anni dal genocidio in Ruanda, una lezione che la comunità internazionale non sembra aver compreso. Intanto l'ambasciatore francese, persona non grata alle commemorazioni. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre se volete le potete commentare al 349-238-6666 oppure scriverci effettogiorno@radio24.it o andare sulla nostra pagina Facebook o ancora scrivere a me su Twitter se volete Simone Spezia. Vi ricordo che domani la trasmissione sarà in diretta dal Vinitaly, quindi se volete ci trovate là alle 13. In apertura parliamo di riforme, lo facciamo con la nostra Elisabetta Fiorito da Montecitorio, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, c'è da registrare oggi un out di Forza Italia al Premier Matteo Renzi sulla legge elettorale, che ricordiamo è una legge ordinaria, non è costituzionale, per gli azzurri è ferma da 3 settimane al Senato, si tratta ovviamente dell'Italicum. Se il governo è in grado di farla approvare va fatto al più presto, perché Renato Brunetta avverte, noi chiediamo a Renzi di approvarla prima di Pasqua, altrimenti casca l'accordo con Berlusconi e con Forza Italia, Simone, il famoso patto del Nazareno. Critico nei confronti di Forza Italia invece Fabrizio Cicchitto del Nuovo Centrodestra, che parla di linea schizofrenica, non si può essere subalterni al ricatto, però dice Cicchitto, non credo che Berlusconi voglia far saltare il tavolo, la linea del tanto meglio, tanto peggio favorirebbe solo Grillo. C'è attesa poi per l'intervento in Commissione Affari Costituzionali alla Camera del Ministro Maria Elena Boschi di mercoledì proprio sulle riforme istituzionali, quindi sul superamento del bicameralismo perfetto. Arriva un primo sì all'interno del PD dalla minoranza bersaniana con Alfredo Dattorre, va bene il monocameralismo ma deve essere credibile, dice Dattorre, il nuovo Senato avrà competenza piena su leggi costituzionali mentre sulle altre materie si andrà verso un sistema tendenzialmente monocamerale. Per il momento è tutto, a te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Nel frattempo l'esecutivo sta lavorando sul DEF, il documento di economia e finanza, dovrebbe arrivare l'approvazione domani pomeriggio, il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Documento di economia e finanza che ha come primo obiettivo di trovare quasi 7 miliardi di euro per intervenire sull'IRPEF o in alternativa per consentire di introdurre misure analoghe di decontribuzione. Tutto garantiscono da Palazzo Chigi senza per il momento ricorrere a maggiore flessibilità del deficit ed ancora riduzione dell'IRAP, che però quest'anno dovrebbe essere solo del 5%, visto che l'aumento del prelievo sulle rendite finanziarie scatterà solo dal 1 luglio e quindi consentirà di coprire solo la metà di quel 10% di riduzione di imposta previsto a regime. Questi dunque i temi sul tavolo del Presidente del Consiglio Renzi e del Ministro dell'Economia Padoan, temi che saranno limati sino all'ultimo anche in funzione del quadro macroeconomico del prossimo triennio, quadro che dovrebbe essere il seguente: il PIL di quest'anno dovrebbe attestarsi attorno allo 0,8%, più in alto di quello indicato dalla Commissione Europea, ma anche sotto l'1% previsto dall'ultimo aggiornamento del Governo Letta. Quanto al deficit, si attesterà tra il 2,5% e il 2,6%. Il DEF conterrà anche gli impegni che il governo attuerà la prossima settimana con il decreto taglia tasse, decreto questo affiancato dal cosiddetto sforbicia Italia, che prevede razionalizzazioni per camere di commercio, motorizzazione, consorzi di bonifica, sistema delle municipalizzate e rete ACI. È tutto, linea allo studio. E più avanti ne parleremo di queste sforbiciate anche col presidente delle camere di commercio, ne parleremo anche con l'ACI. Nel frattempo si parlava del quadro macroeconomico, ebbene c'è quello del 2013 fornito oggi dall'Istat. Gli effetti della crisi continuano a farsi sentire. Il potere d'acquisto delle famiglie italiane, tenuto conto dell'inflazione, continua a calare. Nel 2013 è andato giù dell'1,1%, male anche la spesa per consumi finali, con una caduta dell'1,3%. Tutto questo nonostante in valori correnti il reddito disponibile abbia subito un lievissimo aumento dello 0,3%. Modesto lo definisce l'Istat. Indecisa risalita invece la voglia degli italiani di mettere il fieno in cascina. La propensione al risparmio infatti schizza in alto, sfiorando il 10%, crescendo soprattutto nell'ultima parte dell'anno. Nel 2013 è aumentata dell'1,4 rispetto all'anno precedente, segno che la preoccupazione per il futuro ancora c'è. Quanto alle aziende, si registrano profitti stabili ma investimenti in calo. Resta sempre alta poi la pressione fiscale. Nel quarto trimestre 2013 è stata oltre il 50%. L'Istat infine oggi rende noto anche il dato sul rapporto deficit-PIL, che nel 2013 si è attestato al 3%. Dato valido, scrive l'Istituto di Statistica, ai fini dei parametri UE per le procedure sul deficit eccessivo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E torniamo alle vicende politiche il giorno dopo la manifestazione della Lega. La Lega scende in piazza e alza la voce contro l'arresto dei secessionisti veneti. Secondo il Carroccio, le accuse di terrorismo sono ridicole. Quelli finiti in carcere sono lavoratori, non mafiosi. Se non verranno rilasciati subito, andremo noi a liberarli. È il messaggio lanciato ieri da Matteo Salvini nella manifestazione di Verona. La nostra è una protesta pacifica, ha sottolineato il segretario federale del Carroccio, che al suo fianco ha voluto anche i figli di alcuni degli arrestati. Ma sul palco di Verona, dopo mesi di divisioni e aspre polemiche interne, ieri si sono rivisti insieme anche Umberto Bossi, il sindaco di Verona Tosi e il governatore del Veneto Zaia. Vanno arrestati quelli che sono a Roma, ha esordito il senatur, rispolverando il linguaggio di quando era lui a guidare il Carroccio. Per ridare slancio al sogno indipendentista, Salvini ha dato appuntamento al popolo padano per una nuova manifestazione. Il prossimo 25 aprile sarà la festa di San Marco e sarà la festa della nostra liberazione, ha spiegato il segretario leghista Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo adesso in Ucraina, dove torna ad acuirsi la tensione nelle zone est del paese, quelle a maggioranza russofona. Il primo ministro ucraino Yatsenyuk punta il dito contro Vladimir Putin. C'è lui dietro il ritorno dei separatisti nelle città dell'Ucraina orientale. Una domenica di disordini è continuata oggi, nuovi assalti. A Lugansk attivisti prorussi hanno fatto irruzione negli arsenali delle forze dell'ordine, impadronendosi di armi. A Donetsk restano barricati nella sede del governo, mentre a Kharkiv, più a nord, le forze dell'ordine hanno ripreso il controllo degli uffici governativi occupati domenica. Non si tratta di proteste di massa, ma di qualche migliaio di radicali che, secondo il governo ucraino, sono manovrati per destabilizzare la situazione nell'est, orchestrare disordini e creare pretesti per far intervenire le truppe russe ammassate oltre confine, solo a 30 chilometri dal confine, avverte Yatsenyuk. Gli attivisti chiedono di organizzare referendum sulla separazione dall'Ucraina, riproducendo lo schema seguito in Crimea. Per il governo di Kiev le prossime ore saranno decisive, deve dimostrare di poter controllare la situazione. Yatsenyuk ha detto di avere un chiaro piano di azione e ha inviato vari ministri nelle città coinvolte. Il piano russo, ha detto, è distruggere l'Ucraina e trasformarla in un territorio schiavo della dittatura russa. Non succederà, ha assicurato il premier ucraino. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. Intanto ci sono i risultati delle elezioni in Ungheria, risultati finali. Il partito del premier Orbán è al 44,4%, guadagna 133 seggi, il centrosinistra al 25,9%, Alleanza è quindi a 38 seggi, e poi c'è il partito neonazista Jobbik al 20,5%. Di questo torneremo a parlare più avanti con l'inchiesta di Daniele Biacchetti. E tra l'altro, a proposito di elezioni, restiamo all'estero, si sono aperti seggi in due stati del nord-est dell'India, sono dunque ufficialmente iniziate le elezioni politiche che dureranno oltre 5 settimane, si tratta della più grande consultazione elettorale organizzata in tutto il mondo. Tutti i sondaggi indicano il partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party come favorito per succedere al partito del congresso della famiglia Gandhi, al potere da oltre 10 anni, questione molto importante soprattutto per quel che riguarda la sorte dei nostri due marò. Andiamo alla città del Vaticano adesso, perché sono uscite delle indicazioni importanti per quanto riguarda lo IOR. Io saluto Carlo Marroni, collega del Sole 24 Ore, che segue da molto tempo queste vicende, autore tra l'altro del libro Il Conto Vaticano, un romanzo dedicato proprio, ambientato proprio in tutto questo. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a te. Allora, che cosa è emerso questa mattina? Sì, tra l'altro un comunicato uscito a un'ora abbastanza insolita, alle 9:30 di mattina, quindi ho fatto diciamo che evidentemente è frutto anche di questioni interne che scopriremo solo un po' più avanti, perché quando c'è di mezzo lo IOR c'è sempre, non è mai neutra la questione in Vaticano, anche con Papa Francesco. Sostanzialmente la decisione venuta fuori oggi è che lo IOR non muore, come sembrava potesse accadere, e siccome sembrava che molti si augurassero in qualche modo, perché visto che è stato, diciamo, sede e frutto di scandali infiniti, anche recentemente diciamo, l'ha sfiorato uno scandalo importante, quindi lo IOR continuerà a vivere. Il Papa ha accettato una proposta di cui non conosciamo ancora i contenuti, ma insomma non è una riforma, ecco, questa è la sostanza vera, non è una riforma radicale, almeno per ora. Lo IOR è uno strumento importante, servirà perché per il futuro anche della Chiesa, e questo il Papa l'ha sempre detto, però diciamo che al momento lo IOR viene inglobato nelle nuove strutture finanziarie della Santa Sede, che sono in corso una grande riforma, un cantiere ancora aperto, e lo IOR quindi va avanti. Questo è il senso della giornata per ora. Grazie a Carlo Marroni, e vedremo come evolveranno queste vicende. Noi passiamo alla cronaca con un'inchiesta che riguarda l'aeroporto di Ciampino. Associazione a delinquere finalizzata ai reati di corruzione, turbata libertà degli incanti, falso e frode nelle pubbliche forniture. Con questo elenco di accuse sono state emesse questa mattina 6 ordinanze di custodia cautelare. In manette sono finiti l'ex direttore dello scalo romano di Ciampino, funzionari pubblici dell'ENAC e un imprenditore. Arresti eseguiti alle prime luci dell'alba su ordine del Tribunale di Roma, eseguiti dalla Polizia di Stato con quella di frontiera dell'aeroporto di Ciampino. Gli indagati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale che tra il 2009 e l'inizio del 2014 ha fatto in modo che tutti i lavori eseguiti negli aeroporti minori del Lazio, in particolare in quello di Roma Urbe, fossero assegnati illegittimamente alle società riconducibili all'imprenditore e capo dell'organizzazione criminale. Secondo le indagini, alcuni lavori sono stati eseguiti parzialmente o in difformità dei relativi capitolati tecnici, o addirittura non sono mai partiti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alle cronache sportive adesso, perché c'è una domenica molto ricca da commentare oggi, tra un trionfo tennistico e un tonfo automobilistico. Dario Ricci, ciao, buongiorno. Ciao Simone, ciao. Tra l'altro molto ricco anche lunedì, perché oggi tutti i convocati comincia a durare 2 ore. Insomma, Carlo Genta, Pierluigi Pardo ci avranno... con grande piacere un po' più di lavoro da fare. Dicevamo, domenica e lunedì ricco e arricchito anche dalla Juventus che scende in campo, parliamo del campionato di calcio, no? Con il Livorno alle 19, attesa risposta alla tua Roma, che insomma, come dite voi, non succede, non ma succede, se succede. Prima o poi succederà, potrebbe essere chissà questo l'anno. È chiaro che la Juventus è chiamata a rispondere subito alla Roma, per poi diciamo scollinare verso una parte più facile del calendario fino alla penultima giornata, dove c'è lo scontro diretto all'Olimpico. L'obiettivo di Conte è far sì che diventi solamente una passerella. Poi alle 21 ennesimo esame per il Milan a Marassi contro il Genoa, ma come ricordavi te, ci esalta l'Italia del tennis che torna nella semifinale di Coppa Davis dopo 16 anni con questo splendido Fognini, fidanzato con l'altrettanto forte e splendida Flavia Pennetta. Adesso ci tocca la Svizzera, sì, 12 e 14 settembre sul veloce contro Federer e Wawrinka. Dura. È durissima, però insomma già il fatto di aver battuto Andy Murray, attuale numero 8 al mondo, ma di fatto è uno dei quattro principi del tennis mondiale, vincitore dell'ultimo Wimbledon, dell'oro olimpico, vuol dire davvero tanto. Tonfo invece, dicevamo, per la Ferrari. Dal Bahrain torniamo con un nono e decimo posto di Alonso Raikkonen. Se n'è andato prima della fine, in stile un po' avvocato Agnelli, addirittura il presidente Montezemolo. Prossimo obiettivo è chiaramente il 20 aprile a Shanghai. La sensazione è che questo mondiale sia già perso e sarebbe l'ennesimo a Maranello, Simone. Vedremo che cosa succederà naturalmente nelle prossime settimane, speriamo che questa Ferrari si riprenda. Io intanto ti ringrazio, Dario, già lo ricordavi tu, però lo ricordiamo anche noi, da oggi tutti convocati, durerà fino alle 16. Per quanto riguarda invece l'appuntamento che c'era in quello spazio finale, che era Soundcheck di Gegè Telesforo, lo ritroverete nel weekend, sabato alle 19 e domenica alle 15.30 e alle 19. Segnatevelo se vi piace la musica che trasmette Gegè Telesforo, e in particolare naturalmente se vi piace il jazz. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Si riaccende la tensione nell'est dell'Ucraina. I filorussi che occupano da ieri il palazzo della regione di Donetsk hanno proclamato la nascita della Repubblica Sovrana di Donetsk, e manifestanti filo Kiev sono stati aggrediti da attivisti filorussi a Kharkiv. La borsa di Mosca perde in questo momento circa il 3%. Per quanto riguarda le riforme, Forza Italia detta le sue condizioni a Renzi per proseguire sul cammino insieme. Si faccia entro Pasqua, si approvi entro Pasqua l'Italicum o il patto salta. Il governo intanto è al lavoro sul DEF che dovrebbe essere approvato domani pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Mentre si ipotizzano nuovi tagli agli enti, nel mirino ci sarebbero le Camere di Commercio, la motorizzazione civile e anche l'ACI. E iniziamo dunque proprio da qua, da quest'ipotesi di taglio per quanto riguarda le Camere di Commercio. Saluto Ferruccio Dardanello, che è presidente di Union Camere. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, mi dicono che sia sobbalzato sulla sedia quando ha visto quest'ipotesi. Guardi, io sono rimasto un po' sorpreso che si volesse così mettere mano anche a una istituzione che ha bisogno di essere assolutamente sì rivista, riaggiornata, riammodernizzata, come succede in ogni angolo del mondo, ma di come fare a meno di un'istituzione economica che non c'è paese in sviluppo, in sottosviluppo nel mondo, che dispone di una istituzione che si occupa del sistema delle imprese, mi sembrerebbe veramente un po' troppo. Ecco, un paese poi come il nostro, che ha tante ambizioni di competitività, che ha un brand nel mondo che è riconosciuto come il più prestigioso, che ha una serie straordinaria di qualità e di emozioni che ogni giorno noi produciamo. E dato che siamo un paese di piccole, di micro imprese, anzi di piccolissime imprese, tu pensi che abbiamo un'impresa in Italia ogni 10 abitanti, quindi la dice tutta qual è la dimensione ottimale della nostra imprenditoria, ecco, non avere a supporto un'istituzione che pensa, che programma, che assiste, che semplifica, che tutela, che foraggia il sistema delle imprese, mi sembrerebbe veramente un'operazione non sicuramente molto ragionata. Allora, giusto per chiarire ai nostri ascoltatori, le Camere di Commercio non ricevono soldi dallo Stato e però le imprese hanno sostanzialmente l'obbligo di iscriversi. L'idea è di eliminare l'obbligo, in sostanza. Questa è l'ipotesi. L'obbligo del diritto annuale, così chiamato, è un obbligo, mi permetta, anche di un'estrema modestia, sono meno di 10 euro al mese, per l'esattezza 9 euro al mese che le imprese italiane pagano ad un'istituzione che si occupa dei pezzi, del registro delle imprese, dell'internazionalizzazione, del foraggiamento ai confidi, dell'innovazione, della crescita, dello sviluppo. Io non lo so, veramente è una cifra che ritorna nella quasi totalità alle imprese per i servizi che vengono in qualche modo ad averne beneficio, e soltanto con un parzialissimo utilizzo per poter mettere in moto, in mano, una struttura che oggi in 105 realtà italiane è la rete delle reti, di questo nuovo meccanismo dove lo stare insieme e metterci in rete diventa lo strumento della nuova competitività. Allora, io la ringrazio, questa è la posizione di Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere, che salutiamo. Come avete sentito, l'audio non era ottimo, ma si trova al Vinitali, dove tra l'altro saremo noi in diretta domani alle 13. La saluto, buona giornata Dardanello. Grazie a voi, buon ascolto. E saluto anche Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, c'è qualcosa, almeno queste sono le voci che circolano in queste ore, per carità, poi dovremo vederlo, questo DEF, questo documento di economia e finanza, che potrebbe riguardare anche voi. Ne sapete qualcosa innanzitutto? Beh sì, anche perché diciamo in attuazione del decreto di stabilità dello scorso dicembre, in cui, se non sbaglio, era il comma 457, l'emendamento 457, si parlava proprio di unificare i dati fra motorizzazione, quindi archivio nazionale, e PRA, e quindi ACI. Perché è anche un'assurdità, no, che siano separati queste banche dati, o no? Ma guardi, il discorso è un po' più complesso e non vorrei rubarle troppo tempo. Il concetto è che il PRA è un registro, sì, e come tale è, diciamo, in grado di certificare la proprietà di un veicolo, cosa che un archivio non lo può fare. Ma è la stessa differenza che c'è, guardi, tra conservatoria dei registri immobiliari e catasto. Noi siamo la conservatoria e quindi siamo in grado di di certificare la proprietà, e la motorizzazione no, è un catasto, quindi diciamo non è probabile. E quindi sono due cose diverse che poi confluiscono nello stesso archivio. Giusto, giusto per chiarire, Sicchi Damiani, per chiarire anche qua ai nostri ascoltatori, allora l'ACI, l'Automobile Club Italiano, è un'associazione, però un'associazione che beneficia di denaro pubblico, perché per la riscossione del bollo auto incassate dei soldi naturalmente, e poi avete gli introiti che vi derivano appunto dalla gestione del PRA, il maledetto pubblico registro automobilistico, no? Mi sbaglio? Poverino, no, sì, sbaglia purtroppo. Cioè, allora, mi spieghi. Allora, cominciamo a dire, i bolli, ciò che riguarda la tassa di possesso, gli introiti vanno alle regioni. Sì. E quindi le regioni sono libere poi di rivolgersi con convenzione a chi intendano loro, senza diciamo nessun vincolo. E con quante regioni siete in convenzione? 11 a oggi, okay. 11, ma sono libere scelte, alcune non erano, sono diventate recentemente, e in base alla qualità del servizio uno sceglie una soluzione o un'altra. Quindi le risorse vanno direttamente alle regioni, per questo diciamo non è tanto il valore dell'aggio, che è anche molto modesto, ma sono tutta una serie di attività consulenziali che si fanno per le regioni in tema appunto di incasso, che non, come lei forse saprà, ci sono 180 milioni di euro l'anno che si perdono, perché purtroppo sì, non sempre le cose vanno come devono andare, e quindi diciamo la consulenza del PRA è molto importante per cercare di ridurre al minimo, e comunque che tutta la parte successiva al mancato pagamento incida quantomeno possibile sulle casse della regione. Detto questo, invece, per quello che lei ha detto, maledetto, io non so perché per noi non è maledetto. No, maledetto PRA, nel senso che se ne parla sempre in termini negativi, quindi cioè era un modo di dire, per carità. No, scherzavo, ma il PRA è, allora diciamo così, è un male necessario, perché finché l'auto resterà un bene mobile registrato, non può non essere, a mio modesto avviso, un bene mobile registrato, altrimenti sì, sarebbe una giungla incredibile. Bene, sino a quel momento ci vuole qualcuno che detenga questo pubblico registro. Non è a costo tutto questo non è a costo zero per lo Stato, ma produce introiti per circa 8,7 miliardi. Quindi lo Stato, grazie al PRA, incassa questa somma e non spende nulla per tutto questo, non ci sta né contributo né aggio, nulla. Diciamo, un servizio che viene reso allo Stato, non solo, ma il PRA le incassa anche l'IPP, l'imposta provinciale di trascrizione, l'IPP, senza nessun introito, cioè a costo zero, praticamente zero per le province. Sì. Province dove ci saranno regioni, insomma, quello che questo è il quadro. Senta una cosa, questo è il quadro. Fatto sta che le attività dell'ACI si reggono molto sui soldi pubblici, al di là del servizio che fornite, cioè dico, ma magari questo servizio è la giusta corresponsione per un servizio, però si regge molto sui soldi pubblici l'ACI, nei suoi conti. Guardi, indubbiamente il PRA rappresenta un elemento importante, molto importante dell'attività che ACI svolge, non è monotematica. Cioè, sì, noi riteniamo, vede, con molta onestà intellettuale, che il servizio che fa ACI tramite il PRA sia un servizio inappuntabile. Noi, se vuole, le do un dato che sicuramente stimolerà la sua curiosità. Vede, attualmente è possibile fare qualunque pratica presso gli sportelli, sia del PRA che della motorizzazione. Sì. Quindi lei potrebbe non rivolgersi all'agenzia e andare direttamente al front office. Bene, le do un dato: nel 2013 1.100.000 sono venuti presso gli sportelli PRA, soltanto 55. Ma mi scusi, però nel 2014 è ancora necessario che tutta questa attività si svolga allo sportello? Abbia pazienza. No, bravo. Ah, ecco, lei mi offre autostrade davanti. Ma certo, noi siamo dell'idea che questo non si possa fare, noi siamo pronti a non farlo. Noi se Possiamo, però ovviamente queste sono scelte politiche. Noi siamo convinti di essere un'opportunità e una risorsa per lo Stato, perché abbiamo alle spalle tecnologie informatiche, non solo, in grado di affrontare sfide molto più importanti di queste. Per chiudere, io ho una domanda. Si è pubblicato molto sui giornali nelle settimane scorse a proposito innanzitutto del numero di vostre partecipate e poi dei nomi che ci sono, no? All'interno, per esempio, all'ACI di Milano, se non sbaglio, c'è Geronimo La Russa, c'era. È stato, ma adesso non più. Non più, non c'è più. No, si è dimesso, credo, 2 o 3 anni fa. Due o tre anni fa. Però, insomma, si parla di una struttura elefantiaca, Sticchi Damiano. No, mi permetta, non è così. No, allora, le permetto, gliel'ho fatta la domanda, quindi. No. Io lo spiego, non bisogna confondere l'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, che svolge le attività che le ho detto prima, PRA, eccetera, eccetera, sì. Che ha anche federazione sportiva, che ha anche holding di società, ma è anche federazione di automobili, sì. Club. Ora, ogni automobile club, a cominciare da quello di Milano, da quello di, non lo so, l'ultimo... Fanno le loro scelte, dice lei. Non sono autonomi e autosufficienti, hanno un loro patrimonio, hanno un loro bilancio, hanno delle loro entrate, delle loro uscite, che non sono minimamente, diciamo, certo, ACI fornisce dei servizi alle automobili club, a fronte dei quali le automobili club pagano una quota della tessera sociale ma questo è un'attività, ripeto, federativa. Poi confondere anche queste società, le società sono 10, non mi sembra tantissime, sono praticamente tutte inutili, quindi danno dei dividendi all'ACI, quindi mi sembra, sono alcune sul mercato, altre sono in house. A proposito dei poi le poltrone, quando si confonde, perché purtroppo questo ha detto mi consente di chiarirla, non molte persone. Sì. Però allora guardi, con compattezza la prego. No, 3.000 dipendenti sono dipendenti dell'ACI, Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, eccetera. Poi ci stanno le 800 poltrone, sono nient'altro che i consigli direttivi dei 106 automobili club. Per i quali, a parte i revisori dei conti, che ovviamente è un lavoro, non percepiscono i consiglieri 0 euro, i presidenti qualche volta, perché ovviamente rinunciano 250-300 euro al mese. Stiamo parlando di questo, allora lei capisce, accusare di elefantiasi. Quindi non c'è spazio per tagliare. No, lì proprio no, c'è spazio, no, un momento, però non vorrei lasciare un messaggio che non è quello giusto. Dall'accorpamento e dalla, diciamo, ci sta molto spazio, cioè lo Stato con noi non spende un euro, spende con la motorizzazione, noi siamo pronti a assumerci una buona parte di quei costi a costo zero. Ok, vi prendete e trasferite le cose, trasferite le cose... Abolite la motorizzazione e trasferite tutto all'ACI, dice lei. Questo no, non mi sento di dire, non sarebbe corretto. Però... Noi possiamo assumerci importanti risorse che attualmente sono a carico dello Stato senza che questo produca né una diminuzione del gettito nei confronti della motorizzazione né un ricarico da parte nostra nei confronti dell'utente. Grazie. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sulla riforma di Forza Italia, detta le condizioni, si approvi l'Italicum entro Pasqua. Lieve ripresa per i redditi delle famiglie nel 2013, cresce la propensione al risparmio, ma il potere d'acquisto cala dell'1,1%. Il governo al lavoro su DEF, che dovrebbe essere approvato domani pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. In Ucraina torna a salire la tensione nelle zone russofone del paese. Attivisti filorussi hanno occupato la sede del governo a Donetsk. È il momento della borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Meno 0,62% il FTSE MIB, meno 0,58% il FTSE All Share. Negativo anche il resto d'Europa. Settimana che inizia male. Sì, le borse sono deboli, soprattutto Francoforte, ma anche Milano, come hai detto, questo dopo un rally che durava ormai però da circa 3 settimane, che aveva portato in particolare Milano a un progresso di oltre il 16%. Oggi comunque diversi spunti per vendere, la revisione al ribasso delle stime sulla crescita della Cina da parte della Banca Mondiale, la flessione che ha registrato venerdì Wall Street, soprattutto il suo comparto tecnologico, ma anche le dichiarazioni rilasciate questa mattina dal consigliere della Banca Centrale Europea Novotny, secondo cui l'istituto non ha urgenza di prendere misure per frenare la discesa dell'inflazione. Brevissimamente, qualche titolo da segnalare, Isabella? Sì, sono deboli le azioni delle banche, fatta eccezione della Popolare di Milano, +1,4, Banco Popolare +1,1, che si sono risvegliate a metà mattina, Finmeccanica cede oltre l'1%, col mercato che si interroga sulla cessione di Ansaldo STS, dopo che General Electric si è sfilata dalla contesa per l'acquisto dell'azienda. Ansaldo cede il 3,4%, bene invece Telecom Italia, e questo in un giorno in cui il settore delle telecomunicazioni è sotto la lente, con la francese Numericable che si è aggiudicata SFR per 13,5 miliardi di euro cash. Grazie anche per oggi, Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura di questa parte andiamo in Umbria, perché c'è un tifoso del Foligno che è gravissimo perché è stato ferito alla fine della partita contro il Bastia Umbro, un uomo di 47 anni che è stato preso a pietrate. Saluto Roberto Damaschi, che è direttore generale del Foligno Calcio, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, ma innanzitutto le chiedo un dato di cronaca, se sa come sta l'uomo, il vostro tifoso. Dopo 5 ore d'oltre di operazione in rianimazione, in coma farmacologico, insomma, la prognosi chiaramente è riservata, però c'è un filo di ottimismo che travela. Senta, quello che mi chiedo, come probabilmente si stanno chiedendo molti nostri ascoltatori, è che è com'è possibile, derby o non derby che sia, che alla fine di una partita della Lega Dilettanti si arrivi a fatti di questo genere. Purtroppo la spiegazione non c'è, anche perché non è un derby di quelli che magari nei campi calcistici del sud prevalentemente, ma anche del nord, possono essere definiti pericolosi, tant'è che ieri c'erano 3 poliziotti in tutto allo stadio di Bastia, quindi così è degenerato improvvisamente al termine della partita. Peraltro ciò non giustificherebbe nulla, nemmeno se fosse stata accesa, però negli anni è finita, se non sbaglio, con un ammonito, una partita assolutamente tranquilla, e quindi qui c'è il solito esame sociologico dei perché, di frustrazioni da andare a sfogare in quella che di fatto è una festa e un divertimento, che però per qualcuno tale non rimane. E anche tra i vostri tifosi, insomma, tra i tifosi del Bastia, evidentemente. Ma guardi, non è che da una parte ci sono i santi e dall'altra tutti i delinquenti, però quantomeno in questo caso, diciamo che nelle ultime ore, dopo le prime ricostruzioni un po' sommarie, sta emergendo che c'è una parte che ha aggredito, una parte che ha subito aggressioni, anche se questo non giustifica assolutamente nulla, credo. Mi auguro, da uomo di sport, visto che sono alla 16ª stagione nel mondo del calcio professionistico e dilettantistico, che vengono presi gli autori e puniti non con i DASPO per le gare sportive, ma con la giustizia penale, perché credo che se si vuole riportare il calcio nei suoi binari naturali, è ora che si persegua questa strada. Grazie Roberto Maschi, direttore generale del Foligno Calcio, buona giornata. Noi cambiamo decisamente argomento, si ricordano i 20 anni dal genocidio in Ruanda. Era il 6 aprile 1994 quando l'aereo in cui viaggiava il presidente del Ruanda, di etnia Hutu come la maggior parte della popolazione, venne abbattuto da un missile. Poche ore dopo iniziò nel paese la caccia ai Tutsi. Il risentimento fra le due etnie covava da anni. Iniziò il massacro raccontato da molti film al cinema, come Hotel Ruanda. Questi sono scarafaggi Tutsi. Iniziò il massacro a colpi di fucile e di macete, per strada, casa per casa. Enormi fosse comuni vennero create alla periferia di Kigali, come racconta Gaspar Muike, sopravvissuto, che parla dal Jazeera. I'm feeling the voice of my dad, mom and other brothers and sisters who cannot talk again. Il genocidio a cui seguì la vendetta dei Tutsi fece più di 1 milione di morti in 3 mesi e segnò anche la sconfitta dell'ONU che non intervenne. Oggi il Ruanda è un paese profondamente mutato, con una crescita in 5 anni dell'8%, in cui sussistono però enormi differenze. L'attuale presidente del Ruanda, Paul Kagame, etnia Tutsi, sostenuto dagli Stati Uniti, in un'intervista è tornato ad accusare adesso la Francia di aver partecipato al genocidio. In risposta alle accuse, la Francia ha deciso di annullare la sua partecipazione alle commemorazioni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre Valentina Furlanetto ha sentito Daniele Scaglione, ex presidente di Amnesty International, autore del libro 100 giorni, il paese delle mille colline, sul genocidio appunto che fece 1 milione di morti. Gli ha chiesto qual è stata la colpa delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno fatto di tutto per lavarsene le mani e questa mi pare la lezione più importante da imparare, cioè assumersi le responsabilità. Tra l'altro con la creazione di campi profughi in cui poi si scoprì che anche le milizie andavano a rinfocillarsi nei campi profughi per poi uscire a combattere. Esattamente, e riescono anche a strumentalizzare gli aiuti umanitari che arrivano e sono poche le organizzazioni che hanno il coraggio di dire noi non ci stiamo qua perché finiamo per sostenere dei genocidi. Medici Senza Frontiere lo farà, ma pochi altri seguiranno il loro esempio positivo. Abbiamo imparato qualcosa, perché guardando alla Siria, quello che sta accadendo da ormai 3 anni in Siria, parrebbe di no. Non abbiamo imparato assolutamente nulla, e se certe cose sono accadute non è accaduto perché l'ONU in sé ha sbagliato, ma perché determinate persone che avevano dei ruoli di responsabilità hanno fatto gravi errori. Il primo è quello di Kofi Annan, ha fatto degli errori molto gravi e nonostante questo poi ha fatto carriera, è diventato segretario generale dell'ONU e lo è stato per 2 mandati. Il presidente del Ruanda ha detto che la Francia è responsabile di quello che è accaduto. È così in effetti? È la Francia responsabile? La Francia è molto responsabile, non è l'unica naturalmente, ma ha un ruolo particolarmente grave. È il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi. La forte avanzata dei neonazisti di Jobbik alle elezioni ungheresi non ci coglie impreparati. Da almeno 3 anni in questo spazio avvertiamo che in tutta Europa le destre xenofobe stanno prendendo il sopravvento. In Ungheria Jobbik è in crescita grazie ad un linguaggio anti-europeo e nazionalista e utilizza toni da nazionalsocialismo hitleriano. Si tratta di un partito pericoloso, violento, così diverso dalle cosiddette urla spagnole contro Bruxelles e la retorica sulla patria lanciate dal premier trionfatore in Ungheria, Viktor Orbán. Il successo di Jobbik in Ungheria è solo l'ultimo campanello d'allarme. Solo poche settimane fa le elezioni amministrative francesi erano state contraddistinte dalla sostanziale vittoria del Fronte Nazionale di Marine Le Pen, che ha ereditato la leadership dal padre Jean-Marie e trasformato quel movimento in un vero partito nazionale, organizzato in modo capillare, radicato nel territorio e ora capace di governare in almeno 14 città del paese. A Jobbik e al Fronte Nazionale dobbiamo aggiungere la forza di Pravi Sektor, il cosiddetto settore destro alla guida della rivolta di Kiev, i cui militanti più duri sono membri a tutti gli effetti della nuova polizia in Ucraina. In Italia gruppi come Forza Nuova, Casa Pound, Lealtà e Azioni e altri non sembrano avere al momento il peso politico ed elettorale dei loro omologhi europei, ma sono molto attivi nel territorio. Un esempio, la manifestazione di chiara ispirazione fascista del prossimo 29 aprile sta mettendo in tensione l'ordine pubblico a Milano. E ci sono analogie con il triste periodo dell'avvento del fascismo italiano e del nazismo tedesco. In primis, da 3 anni l'incremento delle destre xenofobe avviene in un clima di indifferenza generale. Pochi giornalisti sono impegnati su questi temi, i media sono sostanzialmente disattenti. E tutto accade nel bel mezzo di una delle più gravi crisi economiche mondiali. Forse, aggiungo io, bisognerebbe avere cura della memoria del passato per avere consapevolezza che la storia si ripete sotto altre forme, ma purtroppo si ripete. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. A US soldier shot three people dead and injured at least 16 on Wednesday before he took his own life at the Fort Hood Army Base in Texas. L'attentato a Fort Hood, un soldato spara contro i suoi compagni, un fatto di cronaca della settimana scorsa, ne abbiamo parlato, è rappresentativo del grilletto facile in America. Un ragazzo di 14 anni, Cathon Anderson, spara per cercare di colpire un membro di una gang avversaria su un autobus e invece uccide un uomo di 39 anni che stava andando al lavoro, Angel Rojas, che padre ai due figli di 12 e di 8 anni. Era arrivato in America 4 anni fa, aveva due lavori in un mercato di frutta e in una drogheria per mantenere la famiglia. Sono due episodi apparentemente diversi, ma secondo me quello più importante da analizzare è proprio quello del ragazzino, perché è quando si è giovani, quando ci sono le pistole a 14 anni, che i problemi veri nascono e poi si traducono in una strage, quando magari quel ragazzino di 14 anni a 30 decide di vendicarsi di qualche cosa in una base militare. Allora, qual è la storia di questo ragazzino? Questo ragazzino aveva già cambiato scuola perché si era trovato in difficoltà, era stato esposto a delle minacce, a del bullismo. Nella nuova scuola di nuovo non si trova bene, lui stesso si lega a una gang, c'è una gang avversaria, sale sull'autobus da solo, ha paura, il padre tempo prima gli regala una pistola, gli dice guarda se ti devi difendere difenditi perché preferisco che muoia un altro piuttosto che sia tu a morire, dunque un messaggio anche quello piuttosto aggressivo e complicato. Due ragazzine lo vedono salire, sono dell'altra gang, chiamano gli amici, i compagni della gang, arrivano sull'autobus. Lui li vede, si spaventa, uno di questi mette la mano come per prendere una pistola, il ragazzino spara e uccide appunto l'immigrato domenicano. Insomma, una storia tragica. Con me per parlare proprio di questi fenomeni di bullismo, di violenza, Ernesto Caffo, fondatore del Telefono Azzurro, grande esperto di violenza giovanile in tutti i suoi aspetti. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Ecco professore, abbiamo parlato di un fenomeno gravissimo. Lei era qui in America, partecipato a un consiglio dove immagino abbiate discusso di cose parallele a quelle di cui ho parlato prima, la sparizione di un bambino magari legata ad altro, ma può essere generata dal bullismo, o sbaglio? Noi abbiamo parlato ad esempio di un fenomeno, quello dei runaway, dei ragazzi che scappano di casa, che sono centinaia di migliaia negli Stati Uniti, analogamente anche in Europa, sono ragazzi che vivono situazioni di violenza in famiglia, ma spesso sono ragazzi che poi diventano autori di violenza quando sono all'esterno. D'altra parte le vittime del bullismo sono spesso ragazzi che hanno delle disabilità, delle difficoltà e molte volte non chiedono aiuto a nessuno, si arriva molto tardi, i genitori non si accorgono di questo fenomeno. E d'altra parte va detto che tra ragazzi molte volte certe violenze diventano drammatiche, soprattutto quando i ragazzi sono uniti in gruppo, quando usano le tecnologie come un elemento per ferire l'altro, postando le proprie immagini riprese in modo improprio, e questo diventa ovviamente per chi è vittima un dramma. Ecco, lei conosce la società americana, lavora con delle organizzazioni americane, se dobbiamo cercare di spiegare quello che è successo in questo autobus, un ragazzo con una pistola che si sente attaccato e reagisce, ma chi è il colpevole? Le ragazze che hanno chiamato gli amici dell'altra gang dicendogli di venire sull'autobus, i ragazzi che sono saliti sull'autobus, il ragazzo stesso che aveva la pistola? Insomma, l'unico innocente è certamente il povero lavoratore, il povero passeggero che aveva due figlie, che faceva due lavori e che è stato colpito per caso. Ma chi è il vero colpevole? Ma è difficile trovare un colpevole in questa situazione, nel senso che la responsabilità è di tanti. Da una parte questi ragazzi che spesso non hanno dei modelli di riferimento, non hanno avuto dal mondo degli adulti appoggi quando erano in un momento di difficoltà e che ha maturato un momento distruttivo nei confronti dell'altro. queste ragazze che di fatto hanno chiamato erano delle ragazze sicuramente che ritenevano in qualche modo di far parte di una banda, di un gruppo. E il gruppo è protettivo soprattutto per le persone fragili. Ma perché devono far parte di una banda? Perché sono da sole a casa? Perché cercano solidarietà? Perché vogliono dimostrare di essere qualcuno di importante? Perché la gang? La gang rappresenta una piattaforma di sopravvivenza in cui molti ragazzi fragili si ritrovano con linguaggi comuni, con codici di riferimento comuni, con modalità che permettono anche con dei tatuaggi, con altri segnali di poter in qualche modo essere, diventare persone identitarie di un gruppo, di un'entità che se no non permetterebbe loro di essere soggetti. Ecco, le gang americane adesso hanno trovato radici anche in altri paesi, in Italia abbiamo le gang italiane, abbiamo avuto dei casi di bullismo straordinario. Ecco, questo fenomeno e sta crescendo, dobbiamo preoccuparci forse di più di quello che ci stiamo preoccupando? No, il tema delle gang è un problema serissimo in Europa ed è d'altra parte in Italia presente, soprattutto per quanto riguarda le comunità straniere, soprattutto sudamericane, ed è d'altra parte difficile da controllare perché molte volte mancano strumenti nell'ambito scolastico, nell'ambito anche della comunità, di interventi preventivi precoci, perché quello che è importante è prevenire il bullismo, prevenire la creazione di gruppi devianti, e invece purtroppo si arriva molto tardi, quando la cronaca porta all'evidenza situazioni drammatiche come quella che si è rilevata in questo caso in questo autobus. Credo che è importante in questi casi cogliere segnali di questo disagio, e sulle gang occorre fare una politica di intervento di comunità molto forte. La si fa in America, va fatta anche in Europa. Ecco, ma sono le famiglie che poi devono intervenire? Dov'è che comincia l'argine alle gang, in famiglia? Sicuramente nelle famiglie, ma molti di questi ragazzi vivono proprio in famiglie in qualche modo fragilissime o inesistenti. Per cui è chiaro che dobbiamo far sì che altre agenzie possano intervenire. La scuola ha un ruolo importante e d'altra parte anche però altre realtà sportive, di comunità, possono essere presenti per cogliere questi segnali e intervenire. Sicuramente dobbiamo puntare sulla comunità, una comunità attiva che può dare segnali forti a questi ragazzi per costruire un percorso positivo e non sicuramente distruttivo come quello che abbiamo visto in molti casi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su media24.com, su Twitter @MarioPlatero. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, a Laura Faggini in assistenza e in redazione, come sempre a tutta la redazione di Radio 24. Effetto Giorno torna domani alle 13, vi ricordo ancora una volta, in diretta dal Vinitaly. Se volete scriverci, Effetto Giorno @radio24.it. Ci risentiamo tra un attimo con GR24.